Matteo Gianmarino. Adesso si è rientrato. Aspetta un attimo, Gianmarino. No, oggi c'ero, trovato la sera qua, c'ero tutti e due i cani. Ci ho provato anche poco fa, verso le 7. Oh. Gianmarino. Dimmi. Ci ho provato anche verso le 7 a chiamare, non ha risposto nessuno. E quando? Sono state alle 7, 7 e 5. Oh, senza pazienza qua. Se è pazzesco qua, non ho sentito nessuno. A giochi si sa fare nel baunusso. Eventualmente magari hai chiamato ma qualche momento che mi sono assentato. Cos'è? È Bacchiso, a che? Oh, non l'ho sentito, io ho acceso adesso l'ho acceso. Ah, certo, signor Bacchiso. Forse non è ancora arrivato. Più tardi a si farà sentire. Da fare in giro oggi. Oh, sono tutta a me, che mangiamo, ma ci pigliato la bicicletta e sono riuscito a farmi una camminata. Oh, e non si era troppo caldo? No, ma anzi, è un po' fresco, perché in certi punti c'è il fresco, poi a che punto c'è però lo gaggio. Ah. Ce l'avevo le gomme a terra, tutte e due, boh, si vede che perdeva la valvola. Ecco, stamattina infatti ero giù, ho buttata fuori, l'ho rigonfiata. Anzi, ho provato a mollare tutte e due valvole prima e dopo le ho rimesse. Speriamo che mantengano. Boh, le ho trovate a terra. Ah, quella che ho io non sono scese per niente. Così che adesso domani mattina attacco la batteria, vedo un po' se carico oppure se ce l'ho a caricare, che anch'io che tra qualche giretto adesso qualche mattina me lo faccio, va. E adesso che comincio a fare un po' di freschetto, il sole non è caldo come era prima. Certo. Sta rinfrescato un pochino, vabbè, ma tanto io giro qua, non è che io vado lontano, no. A Plantamora per dire non ci scendo io, mi farò un diretto qua, tanto per ammazzare l'ora, capito? No, io sono salito in città, ho fatto un giro grande e sono rientrato fuori. Tu sei abituato adesso, e per cui puoi andare come vuoi. Che io devo anche ambientarmi bene, capito? Per cui nel salto andare in avanti e la mattina la prendo un poco, un'oretta, capito? Tutte le mattine. Infatti un'oretta, ho arrivato in giro umano, sono salito a parte via Pascoli, il mercato, piazza Tola, su piazza Castello, via d'Italia, poi sono risalito in coso, l'ospedale dietro, e ho preso i giardini, piazza Università, e poi sono sceso torno a piazza Tola, il mercato, via Pascoli, e sono durato un chilometro e sono durato a casa. Ma si può circolare con la bicicletta dentro il sasso? Certo che si può circolare. In tutti i posti si può circolare. Via d'Italia prenderà la strada dei cosi dove passano le biciclette. Sì, la pista si capi, io lo so che c'è. Lo so per adesso per il cigliolino. Ah, io mi avventuro e ceccio e cammino piano, me la rendi e arrivo. Sono Ventura, se sei qui non sei Ventura. Buonasera signor Bacchiglio, ben sentito. Andate, se la riprenda Giovanni. Buonasera a tutti, buonasera Gio Maria. Capito Gio Maria, c'è lui Ventura, che fece poi non è Ventura qui? Grazie, la parola è Bacchiglio. Io mi potrei fare un giro qua, magari magari lì riuscirà a Cesaraccio, a Sanni, ma andare dentro Sassi non mi fido ancora, capito? Questa la parola è o saranno bacchi. Piano. Ah, sai, Giovanni, non ho trovato con l'attrezzo lì, non ho trovato. Non mi dici se sono finiti. Se avrei saputo l'avrei preso io l'altro giorno. Devo dire che se lo dovessi trovare in qualche posto già ti chiamo, bacchi. Ho provato anche all'altro negozio, sono andato uno all'altro, non lo va a fare. No, diciamo, lunedì mattina sono spariti come niente fosse. Caramelle. E quelli spariscono subito, malato te. E perché lì il coso del ventilatore ce n'era tre o quattro, ce n'erano, E giù non lo so, giù non ci sono andato, ecco. Però c'era tre o quattro lì alla torre, evidentemente li hanno portati via anche qui, li capisco. Sono attrezzi che parto subito perché sono cose buone, capisco? Infatti. La signorina, dice, a mezzogiorno non c'è più niente, sono sparite subito. Poi devo venire lunedì mattina, e c'è proprio molto che erano giocato perché sparivano così. Beh, già le rimettono, bacchi. Vedrai che adesso a mezz'entrante lo metteranno senz'altro, perché ogni tanto li mettono da una parte all'altra, hai capito? Se dovessi capitarmi già te lo faccio sapere. Vai tu. Che cosa era? È trappano? No, la motosega telescopica. Ah, i quali sono spariti subito, sono spariti. Lunedì, quando sono andato io, tempo di mezz'ora non ce n'erano più. Infatti, mezz'ora, signore, sono spariti subito. Infatti. Come la tinta, lo stesso, la tinta è sparita subito, non mi hanno lasciato. Quelle spariscono subito, spariscono. Sono andati da Ruba, sono andati. Va pure a Baro Brigio. La comunità. Infatti ed è così, ma chissà, ma forse già le rimetteranno. Sono sparito, però già fanno portare di nuovo, capito? Io stavo cercando anche pure la bolletta batteria, gatta, e non l'ho trovata, c'erano, però quando sono andato io sono sparito, capito? Adesso appena che arrivo anche io con la bolletta batteria me la prendo, capito? Anche quella è comoda con la batteria lì, perché non stai con questo filo e tira e molla. Infatti, poi la puoi portare con voi e sei tranquillo, capito? Io la stavo cercando, infatti ho andato a prendere e non c'era più nulla. Dice che la riporto al mese entrante, adesso vediamo un po'. Okay. Ho parlato con il direttore della RIO e mi ha detto, dice che quelli fanno un mese sì e un mese no e li riportano. Sì, che li riportano, ma un certo portano qualche attrezzo, capito? Sono molte attrici che stanno andando forte, per cui li riportano. Già li mettono. Cose che interessano, come le serie di quelle chiavi, mini chiavi dentro scatolette, sono comodissime a averla presso. Ehi, ma chi devo lasciarti che per tutta gente? Dai, ci sentiamo domani se Dio vuole, dai. Buon proseguimento, saluto in casa, ciao anche a Tore, dai. Saluto in casa anche a te, to. A domani. Devo chiudere, dai. Ciao, riprendi il tocco. Ok, ciao Giammai, ci sentiamo. Ok, riprendi i bacchi. Buonasera. Ciao Giammai, buonasera, saluto la famiglia. Buona carica, buon tutto. A domani se Dio vuole. Ciao, stammi bene. Allora, tutto bene? Tutto bene. Faccio la Sugani, buru. Allora, allevamento, vai, oggi. Ma che cosa è quello che cade? Buona Buonasera signor Marino. Buonasera, buonasera anche io a Gio Maria e sono tu in casa domani. Bene, ti volevo dire, ciao Pacchisio, ma che è con te colica? No, se vuoi te la reggumi. Ma cosa è il cane, col cane? La lupa, se vuoi te la porto a casa. Ma basta con l'eccesso, ma basta, anche troppo. Ma devi comprare adesso, due. Non ce l'ho in paese. Te l'ha portata ieri, me l'ha portata. Ma che, quella che ti ha dato le palle? Ma già distrutto la zanzariera, ma distrutto. Ma già lo credo, non sono aggiungazzato, Ora voglio giocare, per forza, scusa. Avanti, siamo il Bacchisio. Buonasera Marino, ben servito. Adesso sto facendo il pastore, sto facendo il pastore. Cosa vivo in va? Ma... Boh. Sono un pezzo di terreno, anche piccolino, intanto come un ricibo. E non potete giù i cani, sono riservati, tranquilli e sereni. Sì, gallo come la ciappi. Ciappi, già vengo il terreno. Vedete, sono da tua, pieno il terreno. Tu abusivo, tu mi dico, prendi il recinto e chiudi tutto quanto. E non so se è una cosa, dai. Ehi, ormai, mi sono carreso, non mi interessa più. Ah, sì, perché sono quelli di giù, sono già preoccupati, così. Ah, se tu sei a novembre, poi si ti ribusta. Ah, va bene, vai. Ma non avete in Inghilterra? Sì, se li porta a tornare su, se li porta in Inghilterra. Stanno cercando una casa con un giardino grande, poi fa il box e li mette dentro il box. Se li porta su, se li riportano. Ora i cani viaggiano, questi cani sono anche stufi di viaggiare. Sono in Inghilterra, sono in giro sono questi cani, avanti ma chi? Cani. No, ma la torre gli conviene. C'è quello vicino a campagna, sta vendendo il terreno vicino a Francosanna. Sta vendendo il terreno, c'è già la struttura in legno per coprire tutto. E in più di là, i box, sono sei box. E sei cani, mi sembra che sono quattro. Sono pastori, non pastori, di San Bernardo, e gli altri sono per quei neri, tutti perugi, non so che siano. Ma che fai? Ma come conosco io? Ma chi? Ma quello dove sta Beccia, dove falegname. Sì, ma chi è quest'anno? Quello che l'interrogino, quello di Tato Rossa, cioè, quello che c'è la macchina rossa, no? Come sbaglio? Franco, quello che gli ha dato la scoppa. A lui, sta venendo tutto, sta venendo. Come è venuto mai? La fianco a lui è questo qua. Questa figlia, la fianco a lui, sta vedendo il terreno e i cani. Siccome sento fare l'allevamento dei cani, è un geometra. Si è rotto i piedi e sta facendo sprinciuti. Cani e terreno. Chi ti sei dato di buco? Franco, sta dentro. Fate un pensierino, tu dici un pensierino fatti, vai. Chi sa che Antonio vuole? Quello che vuole, a chi non questa lui non si paga. Scendi, chiedi e ciccia. A me c'ho già i box già pronti. Quei cani lo fanno rosso, il giro rosso ciccia. Sì, già se gagno ne voglio io, e cosa me ne voglio? Se li tengo a conto. Guarda, già se gagno vai, ciccia, non comino. A chiedere, ma sa scendere, chiedi, quanto mi vuole, così. Sei vicino, c'è già il box, e c'è anche un'uscita, avanti, ma figlio. E poi l'allevamento dei cani, il San Bernardo, li ha venduti a 1200 euro, capito? Il San Bernardo li ha venduti a 1200, quei mini, poi non so che razza siano, sono brutti a vederli, ma aggressivi, quelli se ne voleva 2000. Sarà il cane, come si chiama? Il cane, se non ricordo. No, io sono il cane corso, l'altro è il cane, se non ricordo, sono appunto io, tutto vero, così è. Saranno pitbull. Il pelo lungo. sembra abbastanza grosso come cane, un canone grande. Non saranno pitbull, no? No, no, non sono i pitbull, sono neri con il pelo lungo, non è pitbull, non so che hanno un nome strano, ho sentito dire da Franco che si chiama razza, e quello gli prende, diciamo che la moglie ne ha i figli in terra, lui riesce a prendere le palle per terra e gli sta vedendo tutto. Sono Ettore, è un cane da salotto, per te va bene? Sì, cane da salotto. Se arreguri me, compagno, se arreguri me, se rimagnano. Tu hai detto? Ah, hai detto, boh. Tre, due o tre? Tre sono? Due sono, quello da caccia e la lupa. Ma che sai perché ho convinto un altro cane? Perché? Ma chi? Uno con Pinocchio, capito? C'è un cane Pinocchio, Tore, e uno è la lupa. Che cane è Pinocchio, ma chi? Il cane Pinocchio c'è, Tore. Sì, ma come mai? Boh, chiedilo a lui, gli ha tagliato le palle. Non è vero, tu? Cosa vuoi? Ma vedi che palle hai tagliato? L'hanno castrato. Perché l'hai castrato, scusa? Non c'è bisogno di castrare il cane, scusa. Ma che se no si va via la lupa, va già provato. Va bene, un cane è il tuo, lascia fare, se si è il suo cane anche lui, no? Scusa, perché non l'hai fatto stabilizzare, non facevi prima, non sbaglio. E così la rovini, la lupa. Già che sta tentando di accoppiarla con il lupo che c'è là, con Soine. Stiamo tentando di farla accoppiare, ma ancora non ve riuscite. Ma forse è il cane maschio, mi intendo, no? No, la lupa, no, la lupa, sì. Se è bello, è un maschio. Ehi, c'è il maschio. Il maschio puro. Stiamo tentando di farla accoppiare. Non hai capito, invece di tagliare le palle, io avrei sterilizzato. Sterilizzato là, ehi! Se tagliano le palle, li tagliano. E poi le tue non ce le mangiano, vuol dire? Non fate più nulla, va. L'avete rovinato, poverino, cazzo. Povero cane. Ah, so che non ha sentito nulla. Vabbè, lo so. Ma, scusa, me lo avete saltando lì in salta. Boh, avanti, ma chi? Stavo portando al veterinario, gli facevo la puntura e non produceva più. C'era tutto i suoi attrezzi, solo che non produceva. Due o tre giorni, ce l'ha detto, due o tre giorni può resistere così. Però dopo ci riprova, non ti preoccupare, te l'ha già detto. Solo portando via i testicoli. No, fa nulla. Allora, Tito, mia sorella c'ha i gatti, c'ha la maschio e la femmina. E il maschio è sterilizzato. Non ci prova neanche. Neanche ci prova, si passa vicino, nulla va a fare, non la cerca neanche perché non mi vede l'istinto di andarci. Io, ma che visto c'è un gatto anch'io a casa? C'è un gatto stesso sterilizzato. Devo portare lo sindaco, il gatto mio, il maschio, e c'è un gatto di mia figlia che è donna. L'abbiamo fatta vicino alla tua, in gamma Gellano, in gamma Saia. Con il veterinario c'è in gamma Saia che è donna, che mi ha curato il cane qua, con la veterinaria. È uscita in campagna e mi ha curato il cane, è molto brava. L'abbiamo sterilizzato direttamente, ma in effetti, ma che? Non passa vicino, non va giù proprio, avanti. No, non lo cerca perché non gli viene lo stimolo, capito? Gli hanno fatto la puntura e non gli viene lo stimolo di andare a cercare la femmina. Come giù da Gianni, adesso c'è il maschio che l'hanno sterilizzato perché c'è la femmina. No, lei ci fa sopra a lui. Lei ci fa sopra, lui neanche fa le palle, non interessa. Così già va bene, avanti tu. No, il coso è... anche se gli fai la puntura, dopo da un po' gli riviene, me l'ha detto il veterinario, l'unica cosa è portargli via i testicoli. Sterilizzarlo si chiama portargli via i testicoli. Tu l'hai regalato in macelleria, sei quello, non il veterinario, quello è il macellaio, so. Io rovinato il testicolo, non ho capito io. Povero cane, ragazzi. Io l'avrei tagliato a lui, al veterinario l'avrei fatto tagliare, ok? E ti sto dicendo, fanno la puntura, non una puntura, non so se sono due o tre, ci vanno 300 euro, sterilizzato, e gli rimangono gli organi, gli rimane tutto, solo che non funziona. Allora io per il gatto ho pagato, non ti ricordo, 70 o 80 euro, non me lo ricordo, ma non ha fatto nulla, l'appoggio, non so che non l'ha fatto, però c'è tutto, c'è tutto. No, avevamo pagato 180 euro, mi avevamo pagato, li ha dovuti togliere, e si chiama sterilizzato così. Non lo so, per il cane non lo intendo, per il cane, per il gatto va bene, per il cane non lo so. Allora, se vuoi l'ha fatto, sì, l'ha fatto ciccia. Mi porto un minuto, mi sta chiamando mio nipote, faccio veloce veloce, avanti, va che? Quello non è un veterinario, quello è un contadino, è Maloburu. No, ma chi? Non ho chiesto solo da lui, no. Ho chiesto anche alla veterinaria, è la stessa cosa. Ho chiesto ad altri veterinari, è la stessa cosa. E altri veterinari, alla veterinaria 200 euro, all'altri 160 euro. Quindi, sono tutti le matessi. Ascolta, allora, dico questo. Franco Sanna, come stavo dicendo, che cacciatore, c'ha i cani, maschi e femmine, sono tutti dentro il recinto. Però avere rapporti di maschio, per non saltarsi la femmina, l'ha fatto sterilizzare. E c'è tutto, solo che non funziona. Allora, guarda che non abbia sterilizzato la femmina invece, fa una passeggiata. Il maschio ha lasciato tutto, perché in genere fanno, sterilizzano la femmina. Oh, non lo so la femmina, perché l'anno scorso non ho prodotto, ma due anni fa l'ha fatto fare il cucciolo, perché era la prima volta. E il veterinario gli ha detto, almeno una volta nella vita il cane deve avere un rapporto con il maschio, se no sta male. Infatti gli ha fatto fare una cucciolata e boh. Ascolta, io conosco un amico, c'aveva guardi più piccoli di me, 5 figli, alla fine la temporale si è fatto fare, si è fatto sterilizzare, ma c'è tutto quanto però. Io so che se delle cose, il veterinario mi ha detto a me che se maschio e femmina conveniva fare sterilizzare la femmina, però so che la devono fare accoppiare prima per sterilizzarla. Ah, perché non è stato cucciolo lì ancora? No, mi ha detto di farla accoppiare prima e poi di pensare a sterilizzarla. Allora, voglio controllare un bel cane che sia bello, così la coppi e fai i cuccioletti. Avanti, baci. E così so. E cercami un bel maschietto. Che funzioni, però non sia un moschetto di però non niente cuccioli. Bene signori, io adesso ho il micro fra le mani e li devo lasciare perché è ora del merendero. Ciao Marino, buona serata, stata in casa e a risentirci. Ciao Tore, salutissimi anche per te, a risentirci anche domani se coincide. Fatemi bene tutte e due, continuate il quaceo, attenti al cane, a riprendi Marino. Ok, ciao Bacchi, ben sentito, buona cena, saluto in casa, sentiamo domani se coincide, avanti to. Ok, ciao Bacchi, va benissimo, io ne approfitto Marino, ci sentiamo alle prossime, ok, a me. Ci sentiamo, ok, ciao Mari. Benissimo, ciao, ben sentito, sono in casa. Ci sentiamo domani se coincide, ciao.